un orgoglio dei genitori. Intagliavo svastiche nel banco alle scuole superiori. Che ognuno porti le sue croci, quindi viva tutti i matrimoni. Mi pare giusto che anche i froci vogliano essere infelici. Chi vola in economia e pensa a una strategia contro l'austerity. Chi non ha budget né l'authority. Chi c'ha una mission e la location, ma teme l'escalation. Chi in nomination potrebbe uscire dal reality. Non faccio grigliate, ho abbandonato il mio cane l'anno scorso tra Rese e la barriera di Lainate. E tu che gli metti la copertina e lo fai pisciare dove dorme, chi non ha dove andare ti chiede ancora da che parte sto. Chi vola in economy e pensa a una strategia contro l'austerity. Chi non ha budget né l'authority. C'è una mission e la location, ma teme l'escalation. Chi sulla Mini Cooper c'ha l'adesivo di Emergency. Charlie, ci sui Charlie, moi aussi, fino al prossimo lunedì. Ci sui Charlie, ci sui Charlie, moi aussi, fino al prossimo lunedì. Ci sui Charlie, ci sui Charlie, moi aussi, fino al prossimo lunedì. Charlie, ci sui Charlie, moi aussi, moi aussi. Chi vola in economy e pensa a una strategia contro l'austerity. Chi non ha budget